con Luca Ragazzi e Gustav Hofer per presentare il loro film documentario Dictatorship Fallo e Basta, uscita evento al cinema il 10, 11 e 12 giugno 2019. Ben trovati. Ben trovato a te. Mi piace come pronunci il dictatorship, devi far sentire quella K che fa la differenza, capito? Dictatorship, bisogna dire. Con la CK, la Col piccola CK. K che fa la differenza. Lo presentate? Lo presentiamo, sì, noi compagnia di giro ormai è nel nostro DNA, ci diverte tanto, in cambio di un pasto caldo noi chiudiamo l'Italia. Quindi saremo lunedì a Roma, poi Prima passeggiamo Bologna. a Milano. Sì, in realtà lo presentiamo al Biografilm di Bologna, nella sua prima Esatto. italiana, sarà sabato su Cinema Giolì di Bologna. Siamo molto emozionati perché ci hanno detto che questo Biografilm è un bellissimo festival e quindi ci fa molto piacere essere lì. Per chi ci Sabato. ascolta, di cosa stiamo parlando? Di un film documentario che, come spesso nel nostro caso, questo ormai gloriosamente è il nostro quarto film lungometraggio e quando lo dico mi stupisco per primo. E anche in questo caso è una sorta di indagine in quest'Italia di questi giorni. Noi amiamo affrontare temi che ci stanno a cuore e che ci stanno succedendo veramente. Quindi, nel primo caso, improvvisamente il mio anno scorso era la questione sull'omofobia e sui diritti civili, poi con Italy Love Jolly era più il discorso sugli italiani che se ne andavano, i cervelli in fuga. What is left, anche se non l'ha visto nessuno, era una riflessione sulla crisi della sinistra in San Vicentro, mi rendo conto che forse il motivo per cui non l'ha visto nessuno era proprio questo. E ora con Dictatorship cerchiamo di capire perché gli italiani in questi altri paesi sono maschilisti. Cioè, praticamente quello che succede nel film è che io scopro di stare con un maschilista e voglio che lentamente anche lui si renda conto e lo porto così a incontrare diverse persone, sociologi, psicologi, scienziati, neuroscienziati. E lui l'unica cosa che mi propone è la Rocco Siffredi. E insomma, no, perché spesso accade che non ce ne rendiamo neanche conto quando noi stessi siamo maschilisti. E diciamo, non è un film di uomini che parlano di donne, ma vuole essere un film di uomini che parlano di altri uomini. E alla fine uno dovrebbe, o speriamo, scoprire che con dei piccoli cambiamenti alla fine siamo tutti meglio. Senti, Dei piccolini. come era partito tutto? All'origine c'è un altro film, cioè ci hanno proposto di fare è stata la prima volta che qualcuno ci proponeva di fare un film, noi eravamo molto lusingati all'idea che qualcuno avesse pensato a noi, se non che la cosa che ci hanno proposto non era proprio il film dei nostri sogni, era più un film sul rapporto che ogni uomo ha col suo bene, te puoi immaginare, quindi gli abbiamo detto no, grazie. Poi però abbiamo pensato, ma se questo bene fosse metaforico, se fosse la metafora del potere, quindi un film politico sul fatto che il potere alla fine lo detengono sempre gli uomini, bianchi, eterosessuali, cattolici, quindi insomma un film politico, che è quello che sappiamo fare, che abbiamo sempre fatto, e quindi siamo tornati a Canossa e abbiamo detto, ma se invece il film fosse così. E quindi questo accadeva ormai 3 anni fa e ci abbiamo lavorato molto, abbiamo studiato, abbiamo fatto tante ricerche, abbiamo incontrato tante persone e alla fine è venuto fuori questo bizzarro film. E una cosa che dico sempre è che è un film che esiste grazie a Howie Weinstein, non è che l'ha prodotto, però mentre un anno e mezzo fa parlavamo di questo progetto a vari produttori o varie televisioni europee. I responsabili ci dicevano no, non è un tema importante, il problema non esiste. Poi a giugno abbiamo fatto un pitching a Sheffield e questa è stata la risposta. Nel giugno, Nell'ottobre. nell'ottobre del 2017, abbiamo fatto lo stesso pitching al Mia Market di Roma e quel Mia Market era una settimana dopo lo scandalo Weinstein e a quel punto abbiamo trovato i soldi. Non è un problema solo italiano. No, non è un problema evidentemente solo italiano, ma l'Italia si presta, come spesso accade, ad essere un case study perfetto perché tutto qui è amplificato, tutto qui è colorato, tutto qui è gridato e quindi è più facile. Dopodiché io credo, questo l'abbiamo visto, abbiamo portato il film a Toronto, poi anche in Polonia, quindi anche due paesi molto diversi tra loro, in entrambi i casi è andato molto bene, la gente poi ci ha detto qua abbiamo visto un film in grado di parlare anche a noi perché queste cose succedono anche da noi, certo. Noi abbiamo una storia particolare, gli italiani hanno avuto la dittatura fascista, gli italiani hanno avuto la televisione berlusconiana, gli italiani hanno la religione cattolica in casa, quindi questi fattori concorrono evidentemente nel perpetuarsi di una mentalità di un certo tipo. Però però sicuramente non è che il maschilismo o il sessismo, anche in forme più subdole, non esista anche altrove. Mm. Esiste fra uomini e donne, anche donne appunto, etero e gay, e anche fra appunto le sinistra e destra, cioè veramente una questione trasversale. Che impressioni avete ricavato dai dialoghi con i vostri interlocutori? Beh, devo dire che sono stati tutti incontri assolutamente illuminanti. Forse il più illuminante è stato quello con la scrittrice Michela Murgia, che ci ha dato proprio delle chiavi di lettura della realtà fenomenica. Cioè ha detto delle cose che se poi sapevamo, ma che in qualche modo non ci avevamo mai pensato. Lei ce l'ha detta e ci ha messo come degli occhiali in grado di vedere la realtà per quello che era. Ma devo dire, in realtà anche Michael Kimmel, un sociologo americano, anche lui ci ha detto delle cose veramente illuminanti. Ognuno di questi incontri, e purtroppo ce ne sono anche altri che poi non sono finiti nel film, perché come spesso accade nei documentari, poi alla fine al montaggio qualcosa si perde, però ecco, sono stati tutti incontri belli fondamentalmente con persone con cui poi siamo rimasti in amicizia, ma soprattutto veramente illuminanti. È il tentativo di guardare a questa tematica che è veramente enorme, a 360 gradi, per cui volevamo capire cosa dice la scienza, no? Spesso viene tirato fuori l'argomento del testosterone, e ci occupiamo di quello, ma proprio per un po' sfasciare quel mito, sfatare il mito del testosterone, e così come con quello, con vari altri elementi. L'evoluzione sociale, chiamiamola così, sta in qualche modo demolendo questo totem? No, anzi, c'è stato un violento rigurgito, se vuoi. Dopo i movimenti femministi negli anni 70, ricordiamoci che è arrivata la tv berlusconiana, che ha rimesso subito le donne al posto giusto, potrei dire, o al posto sbagliato, e quindi sono corsi e ricorsi storici. Io non sono molto ottimista circa la possibilità che la mentalità degli italiani possa cambiare velocemente. I nostri giovani vanno all'estero e sicuramente questo li aiuta a sprovincializzarsi, però purtroppo non tutti vanno all'estero, qualcuno resta anche qua, e insomma è dura, è veramente dura, perché è veramente una cosa molto molto subdola, molto radicata, non lo so se potrà cambiare velocemente. Ma io invece sono più ottimista, perché quando vedo alle manifestazioni di non una di meno, veramente migliaia e migliaia di donne e anche uomini che partecipano, soprattutto giovani donne e giovani uomini, credo che lentamente usciremo da questo tunnel. Oh, che uscita evento sarà? Come funzionerà? Non l'abbiamo capito veramente neanche noi. Apparentemente è un'uscita evento di 3 giorni, abbiamo detto il 10, l'11 e il 12, però in realtà poi sappiamo di sicuro che invece no, perché lo porteremo poi in giro ancora per l'Italia in modo un po' carbonaro, un po' ufficiale, ancora giugno, luglio. Stiamo ricevendo molte proposte di molti esercenti in giro che ce lo stanno chiedendo, quindi quello che possiamo dire agli ascoltatori è di, se sono interessati a vederlo, evidentemente di tenere d'occhio il giornale e vedere se nella loro città lo fanno, perché sicuramente non avrà un'uscita di 400 copie evidentemente, però posso dire che nelle prossime settimane ci spenderemo molto per farlo vedere. Oppure no, la cosa migliore è magari vedere la nostra pagina Facebook, che è Gustav De Luca, scritto tutto attaccato, lì aggiorniamo sempre le date. E allora ricordiamo l'uscita al cinema di Dictatorship, Fallo e Basta, un film documentario di Gustav Hofer e Luca Ragazzi, 10, 11 e 12 giugno, ma poi anche in seguito. Gustav e Luca, un saluto, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie mille. Grazie.